abbadia. All'età di 15 anni mi inchiuderò nell'abbadia. E oimè, monaca pazza che fui io. E oimè, monaca pazza bimbia non ci n'è. Casi guadì tu bedu tesoro. Quando passa tu ma cugnato, par un galo faru spampinato. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tuo nica no. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tuo nica no. Abbadissa, signora vicaria, non mi venne sto fuoco di l'aria. Quando mi veo vestuta di monaca, luci mi dassi vissuta la tonica. E oimè, e oimè, monaca pazza che fui io. E oimè, e oimè, monaca bimbia non ci n'è. Quando chiana ti strisca luna, piglia la tua nica mozzicuna. Quando chiana ti strisca luna, piglia la tua nica mozzicuna. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tua nica no. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tua nica no. Occhi benissi una botta di viento, quando si porta sto cuozzi commiendo. Occhi benissi tempo di nuovo, quando si porta la superiora. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tua nica no. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tua nica no. Pari. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tuo nica no. Prima di sì, poi di no, marito vuoi e tuo nica no. Figlia mia, non ti dannare, cada gira confessare.